140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. La corrispondenza. Giuseppe Tornatore nelle sale da questo weekend con un film di amore spezzato eppure presente. Ce lo racconta lui stesso. La corrispondenza è una storia d'amore assoluto, di amore totale, tra un uomo non più giovane e una ragazza molto giovane. La sorpresa, l'inghippo, chiamiamolo così, di questa storia d'amore, come capita in tutte le storie d'amore, è che è basata sulla distanza, sull'assenza di uno dei due. Ecco. Questa distanza viene colmata dall'uso maniacale quasi della tecnologia, per cui i due personaggi continuano a convivere insieme anche se in realtà non sono fisicamente insieme. In un periodo in cui molti registi girano, ambientano i film, addirittura negli anni 80 e 90, pur di non avere nemmeno il cellulare, che spesso darebbe noia alle sceneggiature, tu hai deciso invece di far sì che la tecnologia sia un aspetto fondamentale, imprescindibile. Perché il film era questo, voleva parlare proprio di questo. La storia era un'idea che mi portavo dietro da molti molti anni. All'epoca non avevo voluto realizzare il film proprio perché sembrava una storia di fantascienza. Nella realtà non c'era ancora nella tecnologia un riscontro a questa idea che mi era venuta in mente, che sembrava appunto qualcosa di folle. Oggi è assolutamente realistico, tutto quello che accade nel film è tutto verificato, è tutto possibile, quindi non c'è niente di fantastico. Quindi l'idea era proprio quella di raccontare una storia nella quale la tecnologia, l'uso di questi mezzi che usiamo tutti noi quotidianamente, ormai in modo ossessivo, finiscano per darci l'opportunità, se non l'illusione, di riuscire a estendere la nostra presenza e la nostra stessa esistenza, anche quando questo non è possibile. Era questo il tema. E quindi non potevo ambientarla negli anni Ottanta, perché non avrei dovuto fare un film su un amore epistolare, ma questo è stato fatto tante volte. Qui la relazione epistolare è soppiantata da quell'inferno di telefonini, email, computer, Skype e compagnia cantando che ormai conosciamo tutti, perché non riusciamo più a farne a meno. Pensi che noi due ci siamo detti sempre tutto, segreti, misteri. Noi due siamo tutto un mistero. Di che parlavo quando ti ho vista la prima volta? Del concetto di infinito nella storia dell'astronomia. Mi chiedo che stai facendo in questo momento. Lo so che sei arrabbiata con me perché sono sparito. Qui è come essere lì, solo che non posso toccarti. C'è la musica di Ennio Morricone. Oltre a questo fastidio costante del telefonino, c'è qualcosa di molto diverso, che è la musica di Ennio Morricone. Beh, se la può interessare, anche il motivetto che fa il telefonino è composto da Ennio Morricone. Ma incredibile, non lo sapevo. Sì, mi ero pure dimenticato a dirlo in conferenza. Anche quello è stato composto da E hai chiesto, maestro, scrivimi il turillo di un telefonino. Lui cosa ha risposto? Me ne ha proposti diversi. Io ho scelto quello che mi piaceva di più. Poi abbiamo cercato il suono, ne abbiamo cercati tanti, che il film ha una contaminazione di suoni elettronici molto importante, quindi li abbiamo campionati, selezionati, in alcuni casi creati, è stato molto, molto interessante. Ma io nel mio rapporto con Morricone ho già detto tutto tante volte e posso solo ripeterlo, cioè noi ormai lavoriamo insieme da 27 anni, abbiamo fatto 10 film e mezzo, più altre cose, per esempio alcune pubblicità, quindi abbiamo veramente lavorato tanto, abbiamo ormai un rapporto professionale che va oltre la professione, perché siamo molto amici, ci frequentiamo anche quando non lavoriamo, anche se poi finiamo sempre per parlare solo di lavoro, ma così in assoluto. Sono curioso di sapere perché 10 film e mezzo. Questa è una, come dire, una citazione felliniana, perché ho fatto un episodio, un film a episodi, erano 4, io ne ho fatto uno che durava mezz'ora e quindi lo giudico mezzo film, ecco. Quindi 10 film veri e propri e un episodio, 10 e mezzo, no scusa, 11 e mezzo. Ultima domanda, ti chiedono tutti cosa pensi di Zalone, io invece ti chiedo, per quanto riguarda gli incassi, cosa pensi della sfida con te stesso rispetto al tuo film precedente, che era stato quasi una sorpresa di incassi? Nei miei primi film non li facevo perché ancora non avevo capito il meccanismo. Dopo, quando ho cominciato a capire qualcosa, mi sono reso conto che è meglio non farli pronostici, perché non fai altro che sbagliarti sempre. Con la migliore offerta non avremmo mai, se qualcuno ci avesse detto prima dell'uscita del film che avrebbe avuto tutto quel successo, io non ci avrei creduto. E quindi adesso non faccio pronostici, è un film sincero, un film che ho fatto con grandissimo impegno, e quindi spero che il pubblico riconosca almeno questo. Poi i numeri li sommeranno quelli che si occupano dei numeri, non nel mio mestiere. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Giuseppe Tornatore. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.